10. Non so il canale 10, c'è qualcuno. Attenzione canale 10. Attenzione canale 10, c'è qualcuno. I'm going to go to the hospital.